Sei pronto? Sou pronto. Sei pronta? Sì. Sì. Ci sono anch'io, eh? Ok, ci siamo tutti. Andiamo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Illusione movimento. Momento. Movimento. Movimento. Movimento. Movimento. Movimento. Movimento. Movimento. La differenza la fa chi balla, chi non si muove è una palla. Movimento. Movimento. Se volete mandare le vostre dediche, il numero di SMS di SMS è 333-64-67-662. Omletico. Meglio un lento violento o un veloce feroce? Un lento violento o un veloce feroce? Ma vaffanculo! Teniamo il passo, al re del basso, passo. Basso? Ciao, questa è forte. Teniamo il passo, al re del basso, passo. Basso. Passo. Basso. Passo. Basso. Sono Andrea, vorrei dedicare una canzone a una mia amica di Ivrea. Si chiama Deborah. È ginnastica mentale e la canzone che le voglio dedicare. Ginnastica mentale, voglio dedicare. Ginnastica mentale, voglio dedicare. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale.

Ciò che penso è molto intenso. E allora, sai cosa ti dico? No. Voglio sentire un poeta suonare. Gigi Doug voglio ascoltare. Certo. Cri. Dai bien pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Sono DJ Florix. Volevo dirti che sei il tamarro migliore del globo. Complimenti per i capelli. Sì. Se non sai leggere, stai a casa. Complimenti per i cappelli. Non giochiamo. Chica, quiero hablarte una mucha cosa. Sí. ¿Cuál es el nomiñolos de este programa musical mental? Musical mental. Musical mental. Musical mental. Habla, chica. Sí. El nomiñolos. El camino de Gigi. Gigi. D'Agostino. Cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Musica che unisce. M2O. Un uomo di successo è uno che guadagna più di quello che sua moglie riesce a spendere. Una donna di successo è una che riesce a trovare un uomo del genere. Lana Turner. A volte dicono che l'uomo più ha, più non è felice. Io ho un grande amico di nome Luca e sono felicissimo. Jack da Milano. Arriva, arriva, Gigi D'Agostino! cammino di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. Potete dire quello che volete a chi volete. Il numero di SMS è 333-64-67-662. 333-64-67-662. Sono Giada da Acqui Terme. Volevo mandare un bacione alla mia amo Silvia e dirle che è un'amica speciale. E dirle che è un'amica speciale. Sabato a Legnano abbiamo fatto 2 incidenti in un giorno. Volevamo dedicarci a Angel perché ci protegge. Vivi, Ile, Mauro e Tony. Sono Pasquale da Torino. Potresti salutare e dedicare una canzone a tua scelta a mio padre Michele, uno dei tanti soldati italiani che si trovano all'estero. Ci fermiamo un attimo per prendere fiato. Il nostro cammino non è terminato. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. dai e pop. Gigi D'Agostino mandano un saluto, una pennellata e un colpo di martello a Davide 96 di Frassinetto, Mauri da Saluzzo, Graziano da Caporciano. Ma ciao proprio, una salutata generale qua. Chi è sto cammino? Di Gigi D'Agostino. Se volete scrivermi 333-64-67-662. Se hai l'impulso, mi scrivi. Se no. A cosa? Non mi ricordo cosa dovevo dire. Il cammino di Gigi D'Agostino, una grande famiglia danzante. Il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello in Austria. Venerdì 20 ottobre, discoteca Empire San Martin. San Martin, Austria. Sabato 21 ottobre, Dance Club at One. Graz, Austria. Ci vediamo lì, con le musiche e le storie suonate da me. cammino di Gigi D'Agostino. Sono Claudia.slk. Pino vero. Quello vero. Ti amo da morire. Ti prego, Gigi, convinci Simone a perdonarmi. Io ovviamente cerco di fare. Non litigate. Perché? Capito. Elettra da Roma. Cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Qui si vola a tempo attraverso le armonie. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Quasi il cammino di Gigi Gattino. Il gattino. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M2O. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica. Musica. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Gigi D'Agostino. Musica. Musica. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Bella Gigi. Ti stiamo stimando che sta suonando Gigi D'Agostino? Ciao Gigi, sono Max. Saluta la mia bambina Gaia. Hola, pota. Questo è il cammino di me medesimo D'Agostino. La differenza la fa chi balla. Chi non si muove è una palla. Il cammino di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. Potete far sentire la vostra voce. 3-3-3-6-4-6-7-6-6-2. da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Bellissimo bacio da Debora a Marcello 77 da Casarano. Un saluto a Marf. A Marf. Wizard. Buco. Buco. Buco. DJ Mattia. Tia. E tutta la famiglia. Bravo. Un saluto a Nichelino, che è vicino a Mirafiori. Ah. E un saluto a te, maestro. DJ Beppe 82. Il cammino di Gigi D'Agostino. Sono Roberto di La Dispoli. Gigi D'Agostino? Eh? Mixi come mio cugino. Secondo me sì. La ragazza che legge i messaggi, invece, mi risveglia il pitone. Questo coso? Sì, vabbè. Vorrei dedicare lo sbaglio a Lillo, perché con lui ho sbagliato tutto. Rita. Benissimo. Gigi, suona lo sbaglio per il mio amore Samuel e la sua preferita. Ti amo tantissimo, Samuel. Jessica. Jessica, Jessica. A cosa? Volevo dedicare lo sbaglio ad una ragazza, dicendole. Due punti. Io ho iniziato lo sbaglio, ma tu lo stai continuando. Hai capito? Addio. Vorrei ascoltare lo sbaglio e dedicarlo a Damiano. Sì. Perché ho sbagliato, ma ora sto cercando di rimediare e tutto va già un po' meglio. Veve. Lo dedico a Valentina per il suo 21esimo compleanno.

Gigi D'Agostino vi saluta tanto tanto.